Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Partiamo dall'indirizzo, partiamo così nella terza parte di Eclettica. Giulio @radiorockfm.com. Gli usi possono essere molteplici, per esempio iscrivervi alla lista nera di Eclettica e quindi ricevere le playlist di questa trasmissione, ovvero sia il dettaglio di brani, film e libri che vi sentite ogni settimana. Poi per partecipare ai concorsi, per esempio quelli della Casa 139, il DVD recording, la serie di registrazioni aperte con gli Offlaga Disco Pax, proseguite con i Marta sui tubi, questa settimana c'è stato Cesare Basile, però rimane una data a vostra disposizione, il 28 di giugno alla Casa 139 in via Ripamonti al numero civico che dovrebbe essere ovvio. E poi per quanto riguarda luglio tenetevi pronti due date a Ferrara e Roma, però è ancora presto per mettere in palio quei biglietti. Lo stesso indirizzo di mail potete utilizzarlo nel caso vogliate informazioni di carattere tecnico, per esempio in relazione al podcasting sia di Eclettica che delle relative pillole, oppure nel caso siate voi che avete qualcosa da dire, suggerimenti, critiche, indicazioni, fare domande, va bene anche questo. Qualunque cosa volete fare con questo indirizzo, fatela, dall'altra parte vi assicuro riceverete risposta, non so se soddisfazione, però sicuramente risposta. Io per ora sarei a posto così e sarei dell'idea di partire con gli Incipit, sempre che anche voi siete d'accordo. Scherzi di cattivo genere non ne faccia. Non sta bene neppure infilare le dita nella bocca delle ragazze che dormono, raccomandò la donna della locanda al vecchio Eguchi. Al piano superiore probabilmente c'erano solo la stanza di 8 tatami in cui Eguchi stava parlando con la donna e quella da letto attigua. Da quanto aveva visto anche al pian terreno non c'era salotto né altro e dunque non si poteva parlare di una vera locanda. Fuori mancava persino l'insegna, né il segreto di quella casa consentiva forse di affiggerne. All'interno non si udiva alcun rumore, a parte la donna che aveva accolto il vecchio Eguchi al cancello chiuso a chiave e con la quale egli stava ora parlando. Non si vedeva nessuno e a lui, giunto là per la prima volta, non era chiaro se la donna fosse la padrona o un inserviente. Sembrava comunque opportuno non fare domande superflue. Questo era l'incipit della Casa delle Belle Addormentate di Yasunari Kawabata. Time. market like you've worked the cane in her eyes. There are no tears, but only a TV show that says what is real, what is right, what is wrong, and what you'll never ever do anymore. You're gonna be so blind if you listen to it like your fate. Be so blind if you listen to it like your fate. Tonight you're gonna stay okay. So just a little Saturday night, and you're gonna burn to play with your new big gym, stay with your boyfriend here to die. Fifth Avenue è il titolo del brano che ci siamo appena ascoltati. Loro sono i Lefo, gli stessi che già sono passati per più settimane in Eclettica con How Hard It Can Change Your Life, disco uscito per la Urtovox. Ma soprattutto questa terza parte di Eclettica si è aperta con un disco che mi ha stupito. Erano mesi, perlomeno, che un disco non mi stupisse. Sicuramente molto spesso la componente fondamentale del stupore è non conoscere assolutamente l'artista che si sta per ascoltare, mettere il disco nel lettore e da quel momento in poi essere trasportati dalla musica, essere colpiti da atmosfere che non si pensava ci potessero essere, e invece le ritrovi lì in quel dischetto. È un disco, quello che ha aperto Eclettica quest'oggi, a nome Jody Wild Goose. Lui arriva da Sheffield, Inghilterra, un disco uscito nel mese di marzo dopo un debutto che c'era stato nel 2004, Lovely White Teeth. Questo invece è il secondo, si chiama Afterlife, il brano su cui ora ci stiamo concentrando è pop music, ma ve ne garantisco altri di cotanta qualità. Ora ci trasferiamo dalle parti della Giamaica, dove a sua volta si era trasferito Jeff McNichol, batterista dei Samples tra il 1987 e il 1997, che è andato con una drum machine e una chitarra acustica a Kingston a registrare un po' di tracce come questa Shy Lean. Però ha deciso di usare uno pseudonimo, Mr. Anonymous. Cross, angry, miserable, the music here is the stabber. It's bound to kill the five-star general from Kingston, Jamaica. We party like we're raving. Hey, yo, Jaguar, look at all these girls behaving. Street dance broken out on the paving. Never! That's right! Okay! Yeah, yeah! Huh. We told them it's not no Mardi Gras. They can't party like the Yardie, y'all. Never gonna be shy. Come on, sing, oh, we all shall be. so sexy. Sweetie, she get her cologne smell eventually. While leaving her, go home and get friendly. Do it and do it correctly. Youngsters party, get us what we like a documentary. Some of them are camera, some of them are commentary. Now make a movie that a goose me never meant it. No one may do for me, minute me make me entry. Vibes in on the place, me can't feel no easy. You fix it up to the stop, you must be crazy. Youngster up on the grid and the fridge, they pang me. Woman a look for man a searchy lady. English is my name, let it know to society. Self-employed, son of pussy can't fire me. Girl say the word, only you alone can hire me. Me do the bridging and the frigging and the wiring. The party and I feel me girl them where desire me. Working class, yeah, see we and fiery. Girls in a majority, love me solidarity. Say them who that sweat me and turn round and dry me. Now yeah, yeah, some little pussy I go sick of me. Vexing up, just show the girls them pick of me. Turn them on me, burn them on me, spin them on the tip of me. Boom, bam, bam. If you feel like them, you won't stop, rust a swing. Better figure roll anything or anything. Salvation come first, then here comes the bling. I won't resist to ever this the king. Went to school, now me big, red shoes, what a thing. When the lunch bell ring, my favorite food is nothing. Father, up and gone, like rubbish in the wind. And I'm not give the poor man a thing. Guests coming on the show. First of all, our first guest, Mr. Leo. Nice to have you back on the show. Thank you, Adrian. You know, doing fashion for the army is an incredible thing, but today I'd like to talk about Charlie. I'd like to talk about the enemy and what they're wearing. They're wearing black. I say you can fight in the jungle in it, and at night put on some pearls, and you're ready for formal wear. This says it all to me. It's kind of a Hefner thing. They're dressed in pajamas. It's casual. It says I can fight or I can just lay around. Perderti, e questo è il titolo del brano degli E42, E42 che usciranno con un nuovo album solo nel 2007, però hanno dichiarato così, almeno come intenzione, di arrivarci con una serie di singoli. Noi ci siamo ascoltati il primo di questi, che mi è stato fatto arrivare ormai più di un mese fa, e da allora ad oggi è comparso sicuramente con una buona frequenza all'interno delle playlist di Eclettica, a dimostrazione di qual è il valore che io ritengo che questo brano abbia di per sé. Proseguiamo con la musica italiana, però spostandoci da Roma su verso il nord-est estremo. Da quelle parti c'è un'etichetta che fa molte buone cose, la Riot Maker, di cui già conosciamo nomi come gli Scuola Furano, ma anche come quello degli Amari, e da qualche settimana a questa parte anche i Carnival Trio, che ci ascoltiamo con un estratto dal loro disco dal titolo Moda Mare. Thank you. Eclectica. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here, gone with the copper crews. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river of color, and it's flowing Bisbee blue, straight to you. Bisbee blue, some say. Joy Burns e John Convertino, ovvero sia Calexico da Garden Ruin, il brano intitolato Bisbee Blue che chiude la terza parte di Eclettica. Anzi no, ce n'è ancora un altro che la chiude. Si tratta dei The Dresden Dolls, Non Sing, Non Dirty Business, ma questa è Il Primo Orgasmo, First Orgasm. It is a Thursday, I got up early, it is a challenge, I'm usually lazy. I make some coffee, I eat some rice chex, and then I sit down to check my inbox. I only read a letter to you. I stare across the street and see the churches and the blue. The first orgasm of the morning is cold and hard as hell. There won't be any second coming as far as I can tell. I arch my back cause I'm very close now. It's very cold here by the window. There are some school kids yelling and running. I barely notice that I am coming. The first orgasm of the morning is like a fire drill. It's nice to have a little warning, but not enjoyable. I am too busy to have friends. A lover would just complicate my plans. So I will never look taking matters into my own hands. I'm taking matters into my own hands. Eclettica, fine della terza parte.